Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan era immerso nel più profondo delle sue riflessioni quando entrò l'orefice, il signor O'Reilly, un irlandese. «Signor O'Reilly», gli disse il duca di Buckingham, conducendolo nella cappella, «osservate questi puntali di diamanti e ditemi quanto valgono l'uno». L'orafo gettò un'occhiata sulla elegante montatura, calcolò uno dopo l'altro il valore dei diamanti e senza nessuna esitazione rispose 1500 pistole l'uno, milord. Quanti giorni ci vorrebbero per fare due puntali come questi? Vedete che ne mancano due. 8 giorni, milord. Li pagherò 3000 pistole l'uno. Mi occorrono dopodomani. Milord li avrà. Siete un uomo prezioso, O'Reilly, ma non è tutto. Questi puntali non possono essere affidati a nessuno. Devono essere fatti dentro questo palazzo. Impossibile, milord. Io solo posso eseguirli perché non si vede la differenza tra i nuovi e i vecchi. E infatti, signor O'Reilly, siete mio prigioniero. E se voleste uscire ora dal palazzo, non lo potreste. Dunque, rassegnatevi. Ditemi quali dei vostri aiutanti vi occorrono e indicatemi gli utensili che vi devono portare. L'orefice conosceva il duca. Sapeva che qualsiasi obiezione era inutile. Si decise quindi immediatamente. Mi sarà consentito avvertire mia moglie, chiese. Oh, vi sarà anche consentito vederla, mio caro signor O'Reilly. La vostra prigionia sarà mite, state tranquillo. E poiché qualsiasi disturbo merita un compenso, ecco, oltre al prezzo dei due puntali, un buono di 1000 pistole per farvi dimenticare il fastidio che vi procuro. D'Artagnan non si riaveva dallo stupore che gli cagionava quel ministro, il quale manovrava a suo talento gli individui e i milioni. Buckingham condusse l'orefice nella camera a lui destinata. In capo a mezz'ora questa fu trasformata in laboratorio. Poi dispose una sentinella a ogni porta con la proibizione di lasciare entrare chi che sia tranne il cameriere Patrice. Sistemato tutto ciò, il duca tornò da D'Artagnan. «E adesso, mio giovane amico», disse, «l'Inghilterra è nostra. Che volete? Che desiderate?» «Un letto», rispose D'Artagnan. «Per il momento lo confesso, è ciò di cui ho più bisogno». Buckingham diede a D'Artagnan una stanza attigua alla sua. Voleva tenerlo sotto mano, non che diffidasse di lui, ma per avere qualcuno a cui parlare costantemente della regina. Di lì a 2 giorni, alle 11, i due puntali di diamanti erano ultimati e imitati talmente bene, così perfettamente simili, che Buckingham non riuscì a distinguere i nuovi dai vecchi, e anche i più esperti in materia sarebbero rimasti ingannati come lui. Fece chiamare all'istante D'Artagnan. «Ecco», gli disse, «eccovi i diamanti che siete venuto a prendere, e siatemi testimonio che tutto quanto umanamente si poteva fare l'ho fatto. State tranquillo, milord, dirò quel che ho veduto, ma vostra grazia mi consegna i puntali senza la scatola? La scatola vi impiccerebbe. D'altronde mi è tanto più preziosa in quanto è la sola cosa che mi rimane. Direte che la conservo. E adesso, aggiunse Buckingham guardando fisso il giovane, come mi sdebiterò mai con voi? D'Artagnan arrossì fino al bianco degli occhi. Capì che il duca cercava un mezzo per fargli accettare qualcosa e il pensiero che il sangue dei suoi compagni e il suo dovessero essere pagati con l'oro inglese gli ripugnava stranamente. Intendiamoci, milord, rispose D'Artagnan. E mettiamo subito in chiaro i fatti perché non sussistano equivoci. Sono a servizio del re e della regina di Francia e faccio parte della compagnia delle guardie di Monsieur Desessart. Tutto questo perciò l'ho fatto per la regina e non per vostra grazia. Anzi, c'è qualcos'altro. Non avrei forse fatto nulla di tutto ciò se non si fosse trattato di compiacere qualcuno che è la mia dama, come la regina è la vostra. Giusto, assentì il duca. Devo perciò essere grato a quella persona della vostra dedizione. L'avete detto, milord, perché proprio adesso che si parla di guerra, vi confesso che in vostra grazia vedo soltanto un inglese e di conseguenza un nemico che sarei molto più contento di incontrare sul campo di battaglia che non nei corridoi del Louvre. E che d'altronde non mi impedirà di compiere come si deve la mia missione e di farmi uccidere, se necessario, per eseguirla. Qui da noi diciamo fiero come uno scozzese, mormorò Buckingham, e da noi diciamo superbo come un guascone, rispose D'Artagnan. D'Artagnan, avute le istruzioni, salutò il duca e s'avviò in tutta fretta al porto. Di fronte alla torre di Londra trovò il battello indicato, consegnò la lettera del duca al capitano che, fattala avvistare dal governatore del porto, subito levò le ancore. 50 bastimenti erano in partenza e aspettavano. Mentre rassentavano uno di quelli, parve a D'Artagnan di riconoscere la donna di Meung, la stessa che il gentiluomo sconosciuto aveva chiamato Milady e che lui, D'Artagnan, aveva trovato così bella. Ma per la corrente del fiume e il vento favorevole che spingeva, il suo battello filava così veloce che in un momento disparvero alla vista. L'indomani, alle 9 della mattina, approdarono a Saint-Valery. Immediatamente D'Artagnan si diresse all'osteria indicata e la riconobbe per gli urli che ne provenivano. Si parlava di guerra tra l'Inghilterra e la Francia come di cosa prossima e sicura, e i marinai, tutti allegri, facevano baldoria. D'Artagnan si aprì un varco fra la calca, si avvicinò all'oste e pronunciò la parola «forward». Subito questi gli fece cenno di seguirlo, uscì con lui da una porta che dava sul cortile, lo condusse alla scuderia dove lo aspettava un cavallo già sellato e gli chiese se gli occorresse qualcos'altro. «Mi occorre conoscere la strada da seguire», disse D'Artagnan. «Andate di qui a Blangy e da Blangy a Neufchâtel. Là entrate nella locanda della Herse d'Or, date la parola d'ordine al locandiere e troverete, come qui, un cavallo bell'e pronto». «È tutto pagato», aggiunse l'oste, e lautamente. «Su, andate, e che Dio vi accompagni!» «Amen!» replicò il giovane partendo al galoppo. 4 ore dopo era a Neufchâtel. Seguì alla lettera le istruzioni ricevute. A Neufchâtel, come a Saint-Valery, trovò una cavalcatura bella e pronta che l'aspettava. L'oste gli chiese «Il vostro indirizzo di Parigi?» «Hôtel des Gardes, Compagnie des Essarts». «Bene!» rispose quello. «Quale via devo prendere?» domandò a sua volta D'Artagnan. «Quella di Rouen, ma lascerete la città alla vostra destra. Al piccolo villaggio di Écuy vi fermerete. C'è una sola locanda, l'Écu de France. Non giudicatela dall'apparenza. Avrà nelle scuderie un cavallo che vale quanto questo». «La stessa parola d'ordine?» chiese D'Artagnan. «Esattamente. Addio, padrone!» D'Artagnan partì a sprombattuto. In 12 ore aveva fatto circa 60 leghe. Monsieur de Tréville lo accolse come se l'avesse veduto la mattina stessa. Soltanto, nello stringergli la mano con maggior forza del solito, gli annunziò che la compagnia di Monsieur de Cessar era di guardia al Louvre e che poteva recarsi al servizio. L'indomani mattina tutta Parigi non parlava d'altro che del ballo, durante il quale le loro maestà avrebbero danzato il famoso balletto della Merlaison, il balletto favorito del re. Da 8 giorni, infatti, si facevano all'Hôtel de Ville ogni sorta di preparativi per quella solenne serata. Il falegname del municipio aveva rizzato i palchi sui quali dovevano prendere posto le dame invitate. Il droghiere del municipio aveva addobbato le sale con 200 fiaccole di cera purissima, cosa che per quel tempo era un lusso inaudito. Inoltre erano stati prenotati 20 violini, ai quali veniva accordato un compenso doppio del prezzo solito, visto che, dice un resoconto, dovevano suonare tutta la notte. Alle 6 di sera cominciarono a entrare gli invitati. Via via che entravano, venivano sistemati nel salone e sui palchi preparati. Alle 10, nel salone che dava sulla chiesa di Saint-Jean, fu preparato un tavolo con le confetture per il re, di rimpetto al buffet con l'argenteria del municipio che era sorvegliato da 4 arcieri. A mezzanotte si udirono grandi grida e molte acclamazioni. Il re avanzava per le strade che dal Louvre conducono all'Hôtel de Ville, tutte illuminate da lanterne variopinte. Tutti notarono che il re sembrava triste e preoccupato. Era stato allestito un gabinetto per il re e un altro per il fratello del re. In entrambi erano stati posti i costumi in maschera e altrettanto era stato fatto per la regina e per la presidentessa. I signori e le dame del seguito delle loro maestà dovevano vestirsi due alla volta nelle camere destinate allo scopo. Prima di entrare nel gabinetto, il re raccomandò che venissero ad avvertirlo non appena fosse comparso il cardinale. Mezz'ora dopo l'entrata del re, nuovi applausi riecheggiarono, annunziavano l'arrivo della regina. La regina entrò nella sala e fu notato che, come il re, sembrava triste e soprattutto affaticata. In quello stesso momento, la tenda di una piccola tribuna, fino allora rimasta chiusa, si aprì e si vide apparire la faccia pallida del cardinale in abito da cavaliere spagnolo. I suoi occhi fissarono quelli della regina e un sorriso di gioia crudele gli sfiorò le labbra. La regina non aveva i diamanti. Anna d'Austria si soffermò qualche momento a ricevere i complimenti e a rispondere al saluto delle dame. A un tratto il re apparve con il cardinale a una delle porte della sala. Richelieu gli parlava sottovoce e il re era pallidissimo. Fendette la folla e, senza maschera, con i nastri del giusto cuore appena annodati, si accostò alla regina e con voce alterata le disse: «Signora, perché mai, di grazia, non avete i puntali di diamanti, pur sapendo che avrei gradito vederveli?» La regina volse lo sguardo intorno e vide dietro al re il cardinale che sorrideva di un sorriso diabolico. «Sire», rispose con voce turbata, «ho temuto che in mezzo a tanta ressa gli potesse capitare qualche disavventura. E avete avuto torto, signora. Se vi ho fatto quel regalo era perché ve ne adornaste. Vi dico che avete avuto torto». La voce del re vibrava di collera. Tutti guardavano e ascoltavano stupiti, senza capire cosa stava accadendo. «Sire», disse la regina, «posso mandare a prenderli al Louvre, dove sono, e così i desideri di vostra maestà saranno soddisfatti. Fatelo, signora, fatelo, e al più presto. Fra un'ora comincerà il balletto». La regina si inchinò in segno di obbedienza e seguì le dame che dovevano accompagnarla nelle sue stanze. Il re indossava un elegantissimo costume da caccia e suo fratello e gli altri signori erano vestiti come lui. Era il costume che al re stava meglio e in quell'abbigliamento pareva davvero il primo gentiluomo del regno. Il cardinale si accostò al re e gli consegnò una scatola. Questi l'aprì e vi trovò due puntali di diamanti. «Che significa questo?» chiese al cardinale. «Nulla», rispose quegli. «Solo se la regina ha i suoi puntali, cosa di cui dubito, contateli, sire. E se ne trovate solo 10, chiedete a sua maestà chi può averle sottratti gli altri 2. Il re guardò il cardinale con aria interrogativa, ma non ebbe il tempo di rivolgergli alcuna domanda. Un grido d'ammirazione uscì da tutte le bocche. Se il re sembrava il primo gentiluomo del regno, la regina era indubbiamente la più bella donna di Francia. È vero che l'abito da cacciatrice le stava a meraviglia. Aveva un cappello di feltro con piume azzurre, una sopravveste di velluto grigio perla trattenuta da ganci di diamanti e una gonna di raso azzurro ricamata d'argento. Sulla spalla sinistra scintillavano i diamanti sorretti da un nodo dell'identico colore delle piume e della gonna. Il re trasalì di gioia e il cardinale di collera. Tuttavia, distanti come erano dalla regina, non potevano contare i puntali. La regina li aveva, ma ne aveva 10 o 12. In quel momento i violini attaccarono il balletto. Il re avanzò verso la presidentessa con la quale doveva danzare e Sua Altezza Reale, il fratello del re, con la regina. Si misero ai loro posti e il balletto ebbe inizio. Il re si muoveva di fronte alla regina e ogni volta che le passava accanto divorava con lo sguardo quei puntali di cui non poteva sapere il numero. Un sudore freddo copriva la fronte del cardinale. Il balletto durò un'ora. Era composto di 16 figure. Finito il balletto, tra gli applausi di tutta la sala, ciascuno ricondusse al suo posto la propria dama e il re si avvicinò rapidamente alla regina. «Vi ringrazio, signora», le disse, «della sollecitudine che avete mostrato per i miei desideri, ma credo che vi manchino 2 puntali e ve li riporto». E con queste parole tese alla regina i 2 puntali che il cardinale gli aveva consegnato. «Come, sire?» esclamò la giovane regina fingendo di sorprendersi. «Me ne date altri 2, ma allora saranno 14». E infatti il re contò. C'erano 12 puntali sulla spalla di Sua Maestà. Il re chiamò il cardinale. «Ebbene, che significa questo, signor cardinale?» chiese con tono severo. «Significa, sire, che desideravo fare accettare questi 2 puntali a Sua Maestà e che, non osando offrirglieli io stesso, ho adottato questo mezzo. Ne sono riconoscente a vostra eminenza», ribatté Anna d'Austria con un sorriso che dimostrava che non si lasciava ingannare da quella ingegnosa galanteria, «tanto più che sono certa che questi 2 puntali da soli vi siano costati assai più cari di quanto siano costati a Sua Maestà gli altri 12. Quindi, salutati il re e il cardinale, la regina si avviò nella stanza dove si era vestita e in cui doveva spogliarsi. Paolo Bonacelli ha letto I 3 moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.